Uno. Uno, nessuno. Uno, nessuno, nessuno, 100.000. Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, ben ritrovati in questo martedì 21 luglio. Caspita, come vola il tempo, siamo già quasi alla fine dell'estate. Hai visto? Non sembrava nemmeno iniziata l'estate, siamo già quasi alla fine, il 21 Leonardo luglio. Manera incombente. Beh, agosto passa in un attimo e tra pochissimo siamo a Natale. E poi riprendiamo il 31 agosto, tu ci sarai il 31 agosto quando riprendiamo. L'hai firmato questo contratto di rinnovo alla fine o no? Il 31 agosto, sì, riprendete? Il 31 agosto. Riprendete il 31 agosto. È tutto sfalsato come il campionato di calcio. Caspita, cominciare ad agosto è contro natura. Vabbè, tu inizi al primo settembre, dai. No, io chiederò come l'anno scorso una proroga. Ricordi che l'anno scorso è iniziato a ottobre. Sì, però, ottobre. Iniziamo dalla notizia vera. Hai firmato, quindi ci sarai l'anno prossimo? Non lo so, perché nessuno mi ha proposto nulla. Non è che io non ho avuto nessuna richiesta. Non si sa. Ci sono, se non c'è Filippo Aureggi, che in questo momento è in regia. Vabbè, in questo momento è in regia. Lo salutiamo, Filippo Aureggi. Ci sono delle presenze incompatibili, no, nella vita. Tipo? Per me una è con Filippo Aureggi. Se c'è Filippo Aureggi all'interno della radio, so che non ci posso essere. Quindi, io dobbiamo fare il giochino di buttare giù dalla torre. Questa radio è troppo piccola per entrambi. Tra Filippo Aureggi e Leonardo Manera, chi lo sa. Va bene, ben ritrovati da Alessandro Milan, signori, uno nessuno 100 Milan con Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi in redazione, Filippo Aureggi, purtroppo per Leonardo Manera. Che si è tinto i capelli, hai visto che si è tinto i capelli, sono più chiari del solito, si è fatto biondo. Ma non credo, sì. Saranno i colpi di sole di luglio, non no, lo so. Si fa i colpi di sole, le mesh. Caro Filippo, vai. Enthusiasm about the future. Oh, c'è Leonardo Manera qui in studio. Dalle nove. Sono questo... arrivato poi prima delle nove, sì. Sono arrivato alle 8:15. Per questo ricordiamo che ha chiesto 1.000 euro di aumento per puntata per questa mezz'ora che fa in più. Ma con noi, perché io voglio parlare intanto di calcio, di campionato di calcio. Ebbene sì, oggi partiamo così, non siamo tutti convocati, ma vogliamo parlare di calcio perché oggi avremo ospite anche un grande ex campione di calcio, Lilian Thuram, per parlare di razzismo nel calcio. E lo vogliamo fare intanto chiedendoti, caro Leonardo, se tu segui il campionato di calcio con questi stadi vuoti. Ma sì, non mi dispiace, devo dire. Non mi dispiace perché troppo tifo mi mette ansia. Anche quando io vado allo stadio, quando io vedo tante persone intorno a me che urlano, gridano, mi infastidisce. Io vorrei andare allo stadio a vedere una partita con tutti i tifosi, ma che stanno tutti in silenzio. Tutti in silenzio. Bellissimo. Pensa che te stessa. Come in chiesa, con lo speaker che ogni tanto dice adesso esultiamo e tutti si alzano. Bene, seduti. Ma sai che bello? Ci vorrebbe lo speaker che celebra come l'ha messo. Invece ci sono tanti tifosi che vorrebbero tornare allo stadio. Tu ricordi quando siamo andati allo stadio insieme, sì, c'era una persona con... un po' invasata, un amico tuo, hai portato l'amico che nostro. Veramente si era trasfigurato ed era diventato perfino eccessivo nel suo tifo. Tu ricordi i gesti che faceva, le parole che diceva, una persona tranquilla nella vita, ma lo stadio lo aveva trasformato completamente. Lo stadio è così, si hanno dei momenti come... Infatti chiediamo a uno scrittore amico di Radio 24, Maurizio De Giovanni, che torna con noi. Buongiorno Maurizio De Giovanni. Eccomi, buongiorno a tutti. Chissà buongiorno se anche lui si trasfigura allo stadio. Sì, io devo dire ho una visione meno canonico ecclesiastica del calcio. Sono più per il baccanale dionisiaco. Quindi volendo alla religione. Quindi si può fare tutto e tutto rimane come a Las Vegas, tutto rimane a Las Vegas, tutto rimane nello stadio. Diciamo che il calcio è condivisione, il calcio è l'unica grande, purtroppo ed è una visione molto negativa del nostro tempo, ma è l'unica grande passione collettiva in grado di catalizzare gli entusiasmi di massa. Sì. con la fine delle ideologie, con la fine delle istanze sociali, con la fine di tutto questo, con la fine dei movimenti studenteschi, con la fine di tutto quello che portava in piazza la gente, a portare in piazza è rimasto solo il calcio. Sì. Quindi lo difenderei come una categoria protetta, Cioè sarei come il panda, perché la necessità di catalizzare l'emozione di massa penso che sia un'esigenza sociale, sì, se è positiva. Se poi naturalmente l'emozione di massa diventa negativa, diventa un modo per nascondere nella folla quello che di peggio abbiamo dentro di noi, chiaramente no. Sì. Però per dire, è vero che c'è poco, per esempio, poca capacità di sorridere sul calcio. Io qualche giorno fa, dopo la partita Atalanta-Juve, a me piace ogni tanto prendere un po' in giro i tifosi, ho fatto il seguente tweet: ho appena preso un caffè e ho lasciato pagato anche un rigore per la Juve. Mamma mia, mi hanno massacrato, ma si fa per ridere, cari tifosi, no? Ma l'hai costato relativamente poco, perché la domanda, l'offerta è superiore alla domanda, credo. Quindi il prezzo dei rigori della Juve è basso, immagino. Quindi, al di là dello scherzo, con queste nuove regole i calci di rigore fioccano, sì, e chiaramente una squadra come la Juve, che tiene gli avversari molto schiacciati in area di rigore, ha una maggiore possibilità di ottenere questo tipo di risultato. Quindi, il calcio senza tifosi presenti allo stadio, quanto perde, secondo lei? È fattibile? No, è un'altra cosa, è un altro sport, è un'altra condizione. Come non so, la musica registrata, no? Oppure la musica dal vivo, è una coreografia, per carità, sempre divertente da vedere, sempre interessante televisivamente, però è un'altra cosa. Basti pensare per esempio al crollo del fattore campo, no? Cioè adesso sono molte più le partite giustamente, perché poi uno stadio vale l'altro a quel punto. Sono molto più le volte che si vince fuori casa, oppure che le squadre più deboli riescono ad ottenere, a lucrare il vantaggio dell'assenza di pubblico. Io credo sia proprio un altro sport. Va bene adesso, perché non si può fare altrimenti, ma è una cosa alla quale si dovrebbe mettere riparo velocemente. Sì, tra l'altro, sai, mi è venuto in mente che io, quando da ragazzino giocavo a Subbuteo, siccome il tifo è proprio un elemento imprescindibile, io facevo il rumore del tifo mentre giocavo a Subbuteo. Esatto. Perché ti dà l'idea del calcio vero. No, ma è chiaro. Noi Maurizio De Giovanni l'abbiamo chiamata, anche perché tra poco avremo un'intervista con Lilian Thuram, un grandissimo ex calciatore che adesso è molto impegnato sul tema del razzismo, del combattere il razzismo nel calcio. Ecco, quantomeno l'assenza di pubblico comporta il fatto che non ci siano slogan, odi, cori veramente insopportabili. Però ecco, non è una grande salvezza, nel senso, togliere il pubblico per... Mi sembra una soluzione un po' drastica. Esatto, un po', esatto. È come non nascere per non ammalarsi mai, insomma, non è questo il punto. Io credo che le regole ci siano e che vadano soltanto applicate. Se uno dà la partita persa a tavolino 3-0 alla squadra i cui tifosi si permettono di fare anche solo un ululato razzista, le assicuro che non succederebbe mai più. Cioè basterebbe un'unica volta in cui una squadra venga punita con la sconfitta a tavolino, sarebbero gli altri tifosi a impedire a questi ottusi imbecilli di dire una cosa del genere, e questo avrebbe un'importanza enorme, perché il calcio diventerebbe il simbolo e l'accensione di un vero movimento di opinione antirazzista. Se il calcio avesse il coraggio, perché poi sono soldi che si perdono in questo senso, ma se il calcio avesse il coraggio di punire con la sconfitta, non con la squalifica del campo, non con la chiusura dei settori, non con sanzioni amministrative, che mi creda non servono a nulla, ma se si desse la partita persa, le posso assicurare che non ci sarebbe mai più un solo fenomeno del genere in nessuno stadio. Eh beh sì, è una proposta shock ma interessante, perché devo dire, per esempio, a un napoletano, Maurizio De Giovanni, i napoletani sono molto bersagliati, no? Con slogan che sappiamo, il Vesuvio eccetera, ma questi slogan fanno ormai vengono, come dire, passano come acqua oppure lasciano ancora un segno? No, assicuro che sono... provano lo stesso disgusto, lo stesso orrore, lo stesso schifo della prima volta. Non esiste una cosa del genere, non è rubricabile assolutamente, né come goliardia né come spottò, è soltanto una gravissima discriminazione territoriale all'interno dello stesso paese. È una cosa che fa schifo, richiamare al colera, richiamare al terremoto, richiamare all'eruzione del Vesuvio, è come se noi oggi facessimo dei cori a favore del Covid. È la stessa identica cosa veramente schifosa. Io spero che tutti riescano a immaginare come sarebbe se oggi in qualsiasi stadio dove va, che so, il Brescia o l'Atalanta, ci fossero cori inneggianti a questo virus. È la stessa identica cosa, lo stesso processo mentale dal quale noi fortunatamente siamo esenti, e non riusciamo a immaginare niente di più disgustoso. A volte i tifosi dicono proprio che certi slogan sono uno sfottò. Qual è il limite dello sfottò e dove invece comincia l'insulto fastidioso e il razzismo? Ma io vi chiedo come sia possibile immaginare come sfottò l'augurio di una catastrofe naturale, la morte più atroce. Io ho un senso dell'umorismo strano, io che non riesco a capire dove sta lo sfottò. Oppure, cioè, chiamare gente colerosa, dire scappano anche i cani, sono arrivati i napoletani, come peraltro anche cantato allegramente da un futuro rappresentante massimo delle istituzioni, quando non era ancora un rappresentante delle istituzioni, e ci sono i video su YouTube che lo testimoniano, è una cosa veramente schifosa che non trovo divertente in nessun modo. Certo. Se poi lei vede qualcosa di divertente me lo spiega, io sarei molto grato. No, per carità, io riferisco quello che dicono alcuni tifosi. A questi tifosi chiederei volentieri se mi spiegate com'è che vi divertite, perché avete una vita abbastanza triste se vi divertite così. Sì, forse sì, è quello che si buttano fuori, come dire, gli istinti più becere, gli istinti più bassi. Nascosti dalla massa, questa anche... è la vigliaccheria estrema di queste cose che lascia francamente ammutoliti. Noi la ringraziamo, Maurizio De Giovanni, davvero, per essere stato con noi, sempre molto gentile, e grazie a Maurizio De Giovanni, scrittore, oltre che sceneggiatore, drammaturgo, grande tifoso del Napoli. E che dire, perché di razzismo si è anche parlato. Ti ricordi che all'inizio dell'anno, per esempio, è stato preso di mira Balotelli, ci fu questo episodio a Verona con la partita Verona-Brescia, no? In cui Balotelli calciò un pallone verso i tifosi accusando di razzismo i tifosi del Verona, ci furono grandi polemiche. E allora noi abbiamo raggiunto un grande campione, ex campione di calcio, Lilian Thuram, ha vinto tantissimo, soprattutto in Italia con la Juve, e che oggi dedica gran parte della sua vita a combattere il razzismo con le sue fondazioni. Allora, buongiorno a Lilian Thuram e grazie per essere qui con noi. Buongiorno. La sua fondazione si chiama Educazione contro il razzismo, ma come si educa a non essere razzisti? Bisogna dire alle persone che il razzismo ha una storia, perché purtroppo tante volte le persone dicono: guarda che un razzista è una persona ignorante, però non è vero, perché una persona razzista difenda un'idea di società, perché la storia dimostra che tutte le persone non sono razziste, d'accordo? Però ci sono che sono razziste, e tante volte queste persone sono delle persone politizzate, e soprattutto quando si parla del razzismo dentro il mondo di calcio. Credono davvero in questo ideale distorto, secondo lei? È l'istoria del mondo, guarda che il razzismo esiste da secoli, vuol dire che ci sono le persone che puoi sfruttare, perché il razzismo è come il sessismo, capisci? Non è che è uno che crede all'inferiorità delle donne è stupido, vuol dire che lui pensa che c'è una gerarchia fra uomini e le donne, e il razzismo pensa che c'è una gerarchia fra le persone secondo il colore della pelle. E quando sente dire ma in fondo questi cori sono folklore, sono un modo di tifare, come risponde lei? Allora, queste persone che difendono questa idea, e per dire: guarda che è normale essere razzista, non c'è niente di grave. Per questo che è molto pericoloso, perché alla fine ci sono che difendono l'idea che è normale, non è niente di grave, capisci? Come ho detto sempre, per me, al finale le persone che fanno il bu, tu lo sai che cosa pensano. per me gli altri devono essere abbastanza furbi di non accettare come una cosa naturale, denunciare. Ma secondo lei andrebbero anche sospese le partite del tutto quando succedono questi episodi? Da tanti anni dico una cosa, ma secondo me abbastanza semplice. Quando succede delle cose contro una persona è aggredito, sono gli altri che devono dare la risposta giusta, non la persona che ha aggredito. E il giorno che i giocatori che non subiscono il razzismo decidono di uscire dal campo, guarda che le cose andranno in fretta a cambiare. Perché alla fine, come ti ho detto, se tu vedi in strada una donna che si fa picchiare, che cosa fai? Aspetti che lei trova una soluzione o tu arrivi e dire guardate che c'è qualcosa che non va, smettetela. Tante volte le persone che non subiscono il razzismo non capiscono la violenza. Quando loro saranno educate a capire che questa è una violenza pura e dire guardate, noi non giochiamo qua, allora vedrà che le cose andranno in fretta. La frase di quel capo tifoso che è stato poi bandito fino al 2030 dagli stadi, che ha detto Balotelli non sarà mai un giocatore del tutto italiano, in quanto nero ovviamente, come la fa reagire? Mi fa reagire che questo signore arriva a dire questo perché c'è una storia che ti dice che la tua nazionalità è dovuta al tuo colore di pelle. E per questo che dico, guardate ragazzi, ok, c'è un razzismo allo stadio, però dentro la società, secondo voi non c'è? E io credo che c'è il razzismo perché ci sono troppe persone che accettano e che non dice niente. C'è gente che dicono io non sono razzismo. Ok, va bene, non sei razzista, però che cosa fai tu veramente per l'eguaglianza? E secondo lei, Turam, la politica gioca un ruolo importante anche in questo? Beh, sicuramente, guarda che il discorso razzismo, storicamente sono i politici che lo portano, perché quando tu ripeti cada dia, ogni giorno delle cose, dopo ci sono tante persone che lo pensano come vero. Per questo che dico che bisogna che il mondo di calcio capiscono che non è un scherzo. Ma infatti il razzismo c'era anche quando giocava lei, immagino. A proposito, sì. Vede che è cambiato qualcosa in meglio, in peggio? Ascolta, guarda che io prima di essere giocatore di calcio c'era il razzismo. Sono stato giocatore di calcio, c'è ancora. Allora vuol dire che la risposta non è stata giusta. Quanti allenatori, quanti giocatori bianco hai già visto uscire dicendo ai suoi propri tifosi ragazzi basta adesso? Nessuno. Ok, e allora vedi, l'unico allenatore che sento, perché forse ci sono altro, è Carlo Ancelotti. Io ho avuto il mister e io credo che il mister è, come ho detto, non posso dire l'unico perché non conosco tutti gli allenatori italiani, però lui è molto chiaro sulla cosa e io credo che questo che manca in Italia. Però io ho già sentito i giocatori che dicono guarda, no, non è successo niente, non ho sentito niente, è colpa del giocatore nero. Guardate, io credo che i giocatori, gli allenatori che sono bianchi devono avere il coraggio, il coraggio, e dire le cose. Basta anche questo, per capire e perché loro fanno questo bisogna capire anche la storia del razzismo, perché alla fine ti dicono sempre che è colpa della persona che subisce il razzismo. È sempre stato così e per questo che dico, alla fine bisogna avere il coraggio, e io credo che purtroppo non ci sono tanti che hanno il coraggio di dire ai propri tifosi guardate ragazzi basta, la prossima volta noi squadra io non gioco più. Lei ha giocato in tutto il mondo, Turam, e in tanti stadi italiani. L'Italia la trova a livello delle altre nazioni oppure peggio su questo aspetto? Io credo che voi sapete la risposta. Io credo che tutti gli italiani sanno la risposta. Guarda, io sono uno che ha giocato 10 anni in Italia. Amo questo paese, però lo sappiamo tutti che cosa succede. Non è che ogni domenica, ogni 15 giorni, ogni mese che torniamo su questa cosa. Vuol dire che c'è un problema. E bisogna risolvere questo problema, perché non è normale. L'ultima domanda è questa: suo figlio Marcus gioca in Germania. Se succedesse a suo figlio di subire un episodio del genere, cosa si aspetta che faccia? Intanto in Germania non ho mai sentito questo, non dico che non esiste, però non ho mai sentito. Bisogna chiedere ai giocatori che non fanno niente perché loro non fanno niente. E questo, dovete avere il coraggio di andare a vedere questi giocatori importanti, questi allenatori importanti, e dire: guardate ragazzi, da non so quanti anni succede questo, perché voi non dite mai niente? Perché non è che tu devi andare a vedere Balotelli, Matuidi, no. Andate a vedere i compagni giocatori importanti italiani che giocano per la nazionale e chiedere: ragazzi, fatemi capire, come mai non fate niente? Avete paura di che cosa? Siete d'accordo su questo? Perché non andate a parlare con i tifosi? Perché? E sono loro che possono dare la risposta giusta, sono loro che possono fare cambiare le cose, noi giocatori neri, guarda. Grazie allora, grazie davvero a Lilian Thuram, campione di calcio. E allora, cari ascoltatori, ben ritrovati a Uno Nessuno 100.000. Allora, caro Leonardo, voglio leggerti un passo di questo libro di cui forse ti ho parlato. Il libro mi sembra di no, mi sembra che quest'anno tu non sia stato interessato ancora a questo libro. Ma non sai neanche di che libro sto parlando. Ma è l'unico che hai citato più volte. Sembra che quest'anno tu abbia incontrato solo questo libro nella tua vita. Si intitola Io sono il potere. Non l'avevo ancora sentito nominare. Confessioni di un capo di gabinetto. Ho visto che ti è arrivata una mazzetta prima, no, che hai infilato. Anche oggi parlerò di questo libro. Questo libro che mi ha colpito è effettivamente è un capo di gabinetto di un ministero che in anonimo per Feltrinelli ha raccontato la vita di palazzo. Senti un po' cosa dice questo capo di gabinetto in anonimo. Però io una domanda prima che tu dica: ma se è in anonimo, come possiamo essere certi che sia vero quello che viene descritto? Perché tra poco avremo ospite il giornalista che in realtà ha raccolto tutte le sue testimonianze. Quindi è il giornalista che si fa da garante. Vabbè, chi lo sa. Comunque scrive questo capo di gabinetto: una domanda prima. Ma tu ti fidi di questo giornalista che fa da garante? Sì. Ha una buona fama oppure è un giornalista discutibile? Assolutamente. Tu lo conosci di persona? Lo conosco di persona. Puoi garantire che non sia prezzolato da qualcuno? Non lo è. Allora, leggo dal libro: io il Parlamento lo frequento il meno possibile. Non dico che rimpiango i tempi di Berlinguer e Moro, oltre che farmi sentire vecchio il reducismo mi annoia. Mi mancano gli anni Ottanta, quando in transatlantico incrociavo Gino Paoli, Gerry Scotti, Cicciolina. Almeno quelli ti facevano i sorrisetti e via. Ora i peones non si accontentano di essere ignoranti. Sono anche pretenziosi e fastidiosi. Chi vuole un consiglio sul disegno di legge per uno zoo statale nella Bergamasca? Chi ti propone statuti regionali speciali sul modello ottocentesco? Chi ti chiede un appuntamento per quella questione riguardante la tassa di rifiuti del circolo palermitano, confondendo un ministero e un assessorato di circoscrizione? Insomma, petulanti, insignificanti, così li definisce oggi i parlamentari questo capo di gabinetto. E però non ne prende le distanze comunque. Comunque chiedo subito a Giuseppe Salvaggiulo della Stampa, autore e raccoglitore garante di queste testimonianze, di smentire immediatamente quanto ha detto Leonardo, cioè che io sia prezzolato per questo libro. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a tutti, ciao. Giuseppe, smentisci subito questa cosa, sennò verrai cacciato. Non queste leggende nere. A nome mio e anche del capo di gabinetto nego qualsiasi rapporto con Alessandro Milan di alcun tipo. No, io sono rimasto colpito da questo libro, perché è un libro che effettivamente io ho detto: se tu lo vuoi leggere e però pensi di avere poi delle acidità di stomaco, perché è una distruzione di tutto quella che è la nobile arte politica, o meglio è l'arte politica vista dal capo di gabinetto. Ma se uno crede alla politica, come dire, agli uomini che possono cambiare il sistema, poi scopre che il sistema è più forte di loro, Giuseppe. Sì, però visto dal punto di vista del capo di gabinetto è invece la sublimazione dell'arte del governo, è questione di punti di vista.

E poi ci sono i capi di gabinetto di lunghissimo corso che tra di loro si rispettano e come dire, e sanno benissimo che in un modo o nell'altro, cambiando i governi, cambiando le repubbliche, loro torneranno sempre per sì. decenni. Allora, ovvio. Allora, Giuseppe Salvagiulo ovviamente non ci può dire chi sia il capo di gabinetto in anonimo, ma Leonardo, ho scoperto da Giuseppe, ho saputo che esiste, ce lo puoi questo confermare, una riffa tra i capi di gabinetto per cercare di capire chi sia l'autore materiale di queste confessioni. Cioè, adesso anche i capi di gabinetto si interrogano su chi possa avere detto e spifferato tutto questo. No? Sì, sicuramente è uno di lungo corso. Sicuramente sì. Anche che ci sono varie teorie che girano a Roma. Sì. E soprattutto mi hanno detto ieri che c'è addirittura un ministro che ha chiesto di partecipare alla riffa perché è convinto di sapere il nome, quindi è sicuro di vincere. Ma davvero, ma è tutto vero quello che si legge, anche i capi di gabinetto che fanno la pratica molto maschilista di Miss Governo, che eleggono la ministra più bella, cioè ci sono dei parti, delle parti veramente sia spassose ma anche un po' irriverenti, Sì. Devo dire anche autoironiche, questo mi è piaciuto perché chiaramente il capo di gabinetto ritiene che questo mondo sia un mondo dorato, fantastico, elitario, però non diciamo, tradisce anche degli elementi grotteschi, un po' pecorecci, anche maschilisti, dobbiamo dire. Sì, no, diciamo la verità, è tutto autentico, non c'è nulla di inventato, certo. Nulla di gonfiato, nulla di enfatizzato. Tutto incredibile. Anche perché devo dire, io non sarei stato in grado di immaginare aneddoti come quello dei cavalli di Pecoraro Scanio. Ah, questa di Pecoraro Scanio è bellissima. Senti qua, Leonardo, cito sempre dal libro. Roberto Benedetti era il capo di gabinetto di Pecoraro Scanio, che era ministro, ti ricordi Pecoraro Scanio? Ministro Verdi. Per l'ambiente, se non ricordo male. Esatto. Un giorno Pecoraro Scanio convocò Benedetti per una questione urgente. Aveva letto su un giornale che l'esercito si accingeva ad abbattere una ventina di cavalli. E allora Pecoraro Scanio disse: è un crimine, prendiamoli noi. Noi, sibilò il capo di gabinetto Benedetti. Sì, facciamoceli dare e teniamoli in vita, se ne occupi lei. E da qui nasce tutta una controversia con il capo di gabinetto, che si deve occupare con una serie di telefonate, questioni da risolvere burocratiche per rilevare dal Ministero della Difesa questi cavalli. Ci riesce. Ma poi dal Ministero della Difesa lo chiamano e gli dicono: c'è un problema, ci siamo accorti che c'è anche un mulo. Benedetti, disperato, sottopose il dilemma a Pecoraro Scanio, che entusiasta rispose: e prendiamoci anche il mulo! E così Benedetti, capo di gabinetto, dopo aver preso anche il mulo, si dimise isterico e tornò alla Corte dei Conti. Vabbè, anche dura vita quella del capo di gabinetto, quando un ministro chiede qualcosa da fare. Beh, se si salvano i cavalli, mi sembra giusto salvaguardare anche i muli, o anche no? I muli. Solo perché magari sono un po' più bruttini, dobbiamo così stalkerare, mobbing, come si dice come non verbo? So. Mulizzare, non so. No. Mobbingizzare. Mobbingizzare, è inglese, quindi non è che possiamo sapere. Allora, cari ascoltatori, siamo qui quasi in conclusione della prima ora di Uno Nessuno 100 Milan e il buon Leonardo Manera è stato colto da una grandissima, brillante idea da ieri. Perché non facciamo una ricostruzione sul coronavirus? Questo è stato l'anno del coronavirus, quindi visto che adesso noi ce ne andiamo in vacanza e non sappiamo come sarà la situazione a settembre, se ci sarà di nuovo un lockdown, una chiusura totale, volevo un po' ricostruire attraverso le parole, attraverso le parole simbolo di questo periodo, quello che è stato un po' il coronavirus. Ieri giustamente, magari se da non ve ne foste occupati per quei tre secondi in questi ultimi mesi, ora noi vi ricordiamo che c'è stato il coronavirus, mi sembra giusto. Ma a un certo punto bisogna, come dire, rivedere la situazione per quello che è stata nel suo complesso fino ad ora, per poi ripartire in modo più consapevole. Quindi io sto facendo una funzione di servizio pubblico, ecco, in qualche modo. Ecco, lo volevo dire io, servizio pubblico Manera. Sì.

L'uomo stavolta ha un alibi, può lasciarsi andare un po' di più perché c'è questa situazione, ma essendo già portato a essere un po' abbruttito, in qualche modo l'uomo ha già gli anticorpi, sa che l'abbruttimento non può più di tanto impossessarsi di lui. A un certo punto anche il maschio più cinghiale procederà quasi inconsapevolmente verso la doccia, cambierà maglietta, si farà almeno un accenno di barba per rimanere poi con un abbruttimento intermedio, ma comunque accettabile. La donna no. La donna in questa nuova situazione non ha anticorpi contro l'abbruttimento e potrebbe precipitare in un vortice senza fine. Potrebbe, vero, risultare asintomatica e mantenere quindi una certa presentabilità. Potrebbe perfino profumarsi sul collo dietro le orecchie, ma nei casi più seri potrebbe dimenticare completamente tutto quello che ha fatto nella vita e diventare peggio del peggior uomo cinghiale. E allora capiterà di vedere prima o poi donne trasformate da settimane di isolamento con tute unte, capelli macchiati di salsa di pomodoro, donne che ruttano gioiosamente alla luna o nella tromba delle scale per divertirsi un po'. Ovviamente i casi gravi non saranno molti, ma poi non ci saranno abbastanza estetiste disponibili per tutte quelle che ne avranno bisogno. Perciò, donne che potreste contrarre il virus dell'abbruttimento, osservate le necessarie regole di sicurezza. Non fatevi contagiare dal vostro uomo abbruttito mantenendo una certa distanza da lui. Lavatevi più volte, non solo le mani ma anche sotto le ascelle, e verificate ogni 6 ore lo specchio se il vostro aspetto sta assumendo qualcosa di irreparabile. Tutto questo per non cedere definitivamente al fascino discreto e un po' puzzolente dell'abbruttimento. Beh, insomma, la canotta unta e bisunta è un gran classico che probabilmente abbiamo visto. Tu ne hai viste di donne abbruttite? Secondo me anche le donne cedono a questo fascino dell'abbruttimento. Ma insomma, diciamo che le donne, anzi, devo dire, quando si lasciano andare diventano peggio degli uomini. Più camioniste, con rispetto per i camionisti che saranno orgogliosi. Ecco, per esempio, tu hai questa cosa dei camionisti maschi. Tu che sei un frequentatore di case di donne single. Ma non ho è saputo. Vero. Ma ho saputo da chi? Me l'ha detto Mauro Meazza. Ah, allora, vabbè, perché anche lui frequenta. Sì. Hai mai visto il disordine che c'è spesso nelle case di donne single? Molto spesso le donne sono disordinate. Con tutte le scarpe buttate qua ma e là, certo. I vestiti sparsi sul divano, i gatti che camminano avanti e indietro. Come le donne negli alberghi notoriamente lasciano le camere molto più sfatte e disfatte degli uomini. Quindi ovviamente possiamo, non si può fare una cosa generale, ma in genere. Quindi possiamo affermare con certezza che le donne da questo punto di vista sono peggio degli uomini. Cari ascoltatori, rieccoci qui, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Leonardo, ora vogliamo parlare di una persona che era molto amica di Radio 24, purtroppo non è più con noi, si tratta dell'alpinista Daniele Nardi, che i nostri ascoltatori conoscono molto bene perché insieme al nostro Dario Ricci aveva realizzato diverse trasmissioni su Radio 24. Intanto per questo saluto subito Dario, buongiorno, ciao Dario. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora dico era amica perché forse lo ricorderete la vicenda, insomma Daniele Nardi non c'è più, è rimasto là dove forse sognava di compiere l'impresa più importante, più bella della sua vita, è rimasto sullo sperone Mammeri nell'Hangar Parbat insieme a Tom Ballard, compagno di scalata. Questa vicenda, dovrei dire anche questa tragedia certamente, è diventata oggi un libro, si intitola La via perfetta. Il libro è stato scritto con Alessandra Carati, che è qui in studio con noi. Alessandra, ciao e benvenuta. Ciao a tutti, ciao Ale. Libro edito da Einaudi, un libro nel quale si racconta un po' tutta la vita di Daniele e il suo sogno di compiere questa scalata. Intanto devo dire che questo libro è diventato realtà e vado a leggere perché a pagina 224 tu, Alessandra, racconti, visto che tu sei stata al campo base con Daniele e Tom, a un certo punto Daniele decide di inviarti proprio con te presente questa mail: se non dovessi tornare dalla spedizione 2018-19, desidero che Alessandra Carati continui a scrivere il nostro libro perché voglio che il mondo conosca la mia vicenda di vita. È un po' anche un mandato morale importante quello che hai voluto concludere. Sì, è stato abbastanza inaspettato che Daniele quella sera mi chiedesse di assistere alla scrittura, all'invio di quest'email, perché eravamo a Islamabad e stavamo per partire per il trekking di avvicinamento al campo base e non aveva mai menzionato la possibilità che non tornasse indietro, come in realtà nessuno di noi in spedizione pensava che sarebbe mai successo. Quindi è stato un po' così, un colpo inaspettato per me. Quando mi ha mostrato l'email e l'ha inviata davanti ai miei occhi, io ho pensato che non l'avrei mai usata. E abbiamo anche scherzato su questa cosa, e anche lui pensava che non sarebbe mai stata necessaria. Altre volte c'era capitato di scherzare in modo anche un po' forse spinto su questa possibilità, proprio per esorcizzarla. Quindi non era un discorso tabù tra di noi, però era un discorso sempre preso attraverso una battuta, un gioco. Mm-hmm. Perché ovviamente chi fa quel mestiere, Daniele faceva l'alpinista per mestiere, sa che è una possibilità, è un rischio da mettere in conto, quello di non tornare indietro. Ma nel libro, tra l'altro, affronti anche questo tema. Io a questo proposito, Leonardo, c'è un brano del libro che ho selezionato nel quale forse c'è una domanda che si pongono tanti ascoltatori quando si parla di queste vicende. Alle persone fuori dall'ambiente quasi sempre sfugge il senso dell'alpinismo estremo, soprattutto quando capita una morte in quota. Le prime parole che saltano alla mente di chiunque è: perché? Era proprio necessario andare a rischiare la vita? Come se non ne capissimo il valore, come se fossimo sprezzanti del pericolo, temerari. Invece è esattamente l'opposto, è un amore smodato, eccessivo che ci porta lassù. Cerchiamo le sensazioni più estreme che la vita può dare, anche nelle sue manifestazioni spaventose, radicali. Cerchiamo l'ambiente selvaggio, quello da cui ci siamo progressivamente alienati. Cerchiamo la natura implacabile e magnifica. Il perché lo voglio chiedere anche a voi, Alessandra, lo chiedo anche a te: perché sei andata sul Nanga Parbat seguendo Daniele Nardi? La stessa domanda che si pongono tutti quando vedono questi alpinisti che scalano in situazioni estreme queste montagne, ora io la faccio a te. Allora, io ovviamente non sono andata per scalare la montagna, no, perché certo, non ne sono in grado e non è neanche un desiderio che ho. L'ho seguito al campo base perché nel momento in cui ho accettato di fare questo libro ho pensato, mi sono resa conto a un certo punto della conoscenza con Daniele che non avrei mai capito il mondo dell'alta quota se non avessi fatto questa esperienza, cosa di cui continuo a essere convinta nonostante sia stata una, credo, delle cose più difficili che abbia fatto nella mia vita e più anche pericolose per quanto riguarda me, perché la vita al campo base non è comunque comoda, diciamo. No, e tra l'altro arrivare al campo base è qualcosa che per una persona normale come io sono, soprattutto in inverno quando le temperature sono intorno allo zero e possono muoversi solo in basso dallo zero ma mai verso l'alto, diventa tutto molto complicato, l'acclimatazione, i rischi che possano accadere, che possano venire un edema cerebrale, un edema polmonare, quindi, e la fatica di salire su strade, su sentieri che non sono i sentieri che noi ci immaginiamo che abbiamo sulle Dolomiti. Ma adesso del campo base parliamo. Dario Ricci, quante volte vi siete interrogati sul perché? Guarda, arriva un messaggio: che mestiere è l'alpinista? Rispondi, Dario. Ma io non so se sia un mestiere. Sicuramente Daniele, come quei pochissimi, quel manipolo di astronauti, di argonauti, che sono gli alpinisti, perché loro vedono cose che noi mai vedremo e che sentiamo attraverso il loro racconto, riescono con grande fatica a fare della loro passione un mestiere assolutamente non canonico. Questo era per Daniele, che era riuscito orgogliosamente a trasformare questa passione in lavoro, tant'è che uno dei momenti in cui in modo anche ingenuo professava con maggiore orgoglio questo è quando proprio poteva dire a domanda precisa: che lavoro fai? Io faccio l'alpinista. Sì. Questo era sicuramente un motivo di orgoglio. Di orgoglio. Che poi sia un mestiere, no? Questo è sì, che sia un mestiere, no? Che sia uno straordinario avventura e che siano loro i nostri occhi per quei panorami, per quegli scenari, per quelle vette incredibili, questo sì, questo assolutamente sì, sono degli ambasciatori. Ecco Dario, ora vorrei far ascoltare un estratto di una tua intervista a Daniele quando poco prima di partire disse di non voler scalare il Nanga Parbat, ma nello specifico lo sperone Mammeri. A me piace dire ultimamente che io in realtà non sto andando al Nanga Parbat in inverno, e faccio una provocazione su questo, perché io in realtà sto andando sullo sperone Mammeri. Quello era il mio grande sogno, riuscire a completare quella via, già riuscire ad arrivare tra i 6.900 e i 7.000 metri, quando si può considerare praticamente conclusa questa via nuova, già il mio primo grande obiettivo. Poi chiaramente da lì cercherò di tirar su fino alla vetta, però ecco, io non sento questa ossessione esagerata nei confronti della montagna, ma in realtà ci vado con una libertà mentale e una preparazione fisica che sono sicuro sarà la base per ottenere veramente un bel successo, non solo pratico ma anche di messaggio rispetto al coraggio, la forza, la determinazione di rimettersi in piedi e vincere le sfide della vita. Ecco, questo è un punto fondamentale, Alessandra, cioè lui voleva scalare, certo, il Nanga Parbat, ma lo sperone Mammeri, che ci puoi spiegare, in realtà è la stessa montagna, insomma. Sì, diciamo che ogni montagna capita che le montagne abbiano diverse vie per arrivare in vetta. Diciamo la via classica, quella da cui tutti salgono sul Nanga Parbat, è la via Kinshofer. Lo sperone Mammeri è una via che non è mai stata completata ed è frutto della visione di Frederick Mammeri, che è un alpinista che Daniele stimava sommamente, soprattutto per il suo stile di scalata, che lui chiamava by fair means, che vuol dire con mezzi leali. Quindi è un confronto, un corpo a corpo diretto tra l'alpinista e la montagna, riducendo al minimo tutti quelli che possono essere le corde fissate, i campi intermedi. Quindi è come se fosse la scalata nella sua versione più pura e più ideale. Ed è appunto un ideale, nel senso che è molto difficile scalare in inverno senza montare campi, senza usare le corde. In questo senso è la via perfetta, no? Come nel titolo. E l'altra cosa per cui la via perfetta è che in realtà è la via più diretta alla traiettoria della caduta di una goccia d'acqua, per cui è una costola di roccia come se fosse un dito che punta dritto alla vetta dalle pendici della montagna. Questo per Daniele era la via più elegante, era quella che lui diceva, perché salire con fronzoli, con deviazioni eccetera quando c'è quella possibilità, una via dritta, cioè togliere invece che aggiungere, in questo senso andare, esatto, più tutto in sottrazione, sì, sia nello stile di scalata sia nella scelta della via. Rieccoci a Uno Nessuno 100 Milan, siamo qui con Alessandra Carati in studio, Dario Ricci collegato con noi. Alessandra, tu al campo base del Nanga Parbat ci sei stata. Prima però di chiederti quale sia stata la tua esperienza, vogliamo sentire un contributo audio di Daniele Nardi. Il nostro campo base è questa qui che vedete, è la mia tenda. Giù c'è la tenda di Tom, che se non si vede molto bene. Quest'anno in realtà c'è veramente tanta neve qui al campo base, non è facile aspettare, ci si inventa sempre qualche gioco per poter passare le ore. Ma noi aspettiamo. In questa situazione c'è la grande gioia, quello che ci mantiene motivati è la bellezza della scalata sullo sperone per poter completare la salita. Certo, questa neve ci mette in difficoltà, soprattutto quando sono molti giorni al campo base. Allora Alessandro, non so neanche che effetto ti faccia, no? sentire questa voce che era a fianco a te di fatto in quei giorni. Tu nel libro lo descrivi molto bene, la condizione di vita, riesci a trasferircela a parole, perché il freddo non si sente se lo si descrive a parole, però tu sei brava a raccontare esattamente che cosa significa vivere al campo base a quelle temperature. Sì, io sono andata anche perché normalmente gli alpinisti normalizzano questa condizione, per cui, perché ovviamente per loro la cosa difficile è scalare, arriva non è sopra... dopo, esatto, certo. Però poi quando tu sei lì ti rendi conto che ogni piccola operazione ti impiega il triplo del tempo di quello che ti impiegherebbe a livello del mare o comunque a queste quote, perché hai due problemi, uno la quota e l'altro il freddo. Ti faccio un esempio, la quota mi causava una vasocostrizione per cui io non digerivo mai e la notte vomitavo sempre, scusate se è un po' però è così. Le prime sere io non lo sapevo che mi dovevo tenere la borraccia dentro il sacco a pelo, perché tutto quello che è fuori dal sacco a pelo si ghiaccia. Quindi io mi svegliavo e non avevo neanche l'acqua da bere. Poi con il Daniele mi spiegava: tutto quello che ti serve devi tenerlo dentro al caldo. Quindi avevo le salviettine umidificate, la borraccia, e questo è semplicemente una cosa. Poi c'è il problema dell'igiene, che è ovviamente sempre molto complicata, perché non ti spogli mai al campo base. Ma perché stai dentro al campo base, non hai una stufetta tipo dentro le tende? Avevamo una stufa dentro la tenda, ah, e la stufa teneva, di notte la spegnevamo, quindi di notte andava meno 20, meno 30, per cui c'era la brina. Per non rischiare l'intossicazione? Sì, per una serie di ragioni, perché effettivamente, tra l'altro, se tu ti scaldi troppo con la stufetta, poi dopo è un problema quando esci. Prima o poi devi uscire, non puoi restare tappato nella tenda giorno e notte. Per esempio, racconti che tu non avevi la forza per scavare nella neve per mettere la tenda, e però, non volendo dipendere dagli altri, dici, hai accettato di vivere nella tenda comune, no? Sì, perché io non volevo che gli altri impiegassero energie per scavarmi la piazzola, che sono preziose. Perché quelle energie lì non le recuperi più. In uno dei tentativi, tu racconti 5 tentativi, l'ultimo purtroppo è quello tragico, nel tentativo numero 4 ci fu la vicenda che portò in cima Simone Moro, quasi in cima Tamara Lunger, perché non arrivò in cima per una settantina di metri. E in quella spedizione ci fu un grande litigio, un clamoroso litigio in quota tra Simone Moro e Daniele Nardi, appunto. E tu, Alessandra, racconti tutto della versione di Daniele Nardi. L'alpinismo è fatto anche di queste sfide che a volte si portano avanti per decenni. Ricordate quella famosa di Bonatti, K2, insomma, non dobbiamo riepilogarla. Tentativo numero 4 è il tentativo nel quale ci sono diverse spedizioni. Simone Moro riesce ad arrivare in cima, Tamara Lunger, che era con Simone Moro, no, di pochi metri, ma soprattutto c'è un litigio clamoroso che io introdurrei, caro Leonardo, con una lettura, una considerazione di Daniele Nardi. La verità è che l'alpinismo ad alti livelli non è l'idillio romantico con la natura che da sempre viene raccontato e che piace tanto al pubblico. Quando si va verso la vetta non si è rapiti dalla contemplazione dell'ambiente, non c'è tempo per filosofeggiare sul nitore dei ghiacciai o sulle guglie che si stagliano verso il cielo. Il campo base è un luogo di lavoro, è un atteggiamento molto pragmatico quello che ci anima, c'è ancora il senso della sfida, ma è una sfida indissolubile dal denaro, è una guerra di tutti contro tutti e ogni azione è lecita, io combatto con le armi che ho a disposizione. Allora, Alessandra, ci puoi spiegare quella che tu racconti, la verità di Daniele Nardi, cosa è successo con Simone Moro lì in quota? Sì, questo è stato un evento che all'interno dell'ambiente dell'alpinismo è stato molto dibattuto, molto problematico, sono stati sparsi veleni a destra e a manca, ci sono stati video pubblicati dalla Gazzetta e poi tolti, che Daniele aveva considerato diffamatori, che poi anche la Gazzetta evidentemente ha considerato tali, visto che poi li ha rimossi. Quello che succede è che ci sono due spedizioni, la spedizione di Daniele attrezza la montagna, monta le corde fisse, montano quasi tutti i campi, anche quelli alti. A un certo punto c'è un grandissimo litigio tra lui e Simone. Simone tesse una tela del ragno nei confronti di Daniele. Daniele parla quasi di mobbing, nel senso che Simone si avvicina ad Alex e quello che fa è fare in modo che Daniele venga scalzato dal suo posto. Alex era il capo cordata, diciamo, di Daniele Nardi. Esatto, era il capo spedizione della spedizione dove c'era Daniele. Questa cosa è stata raccontata da Simone Moro e poi raccontata da Alex Cicon in una maniera, e qui abbiamo quella che è un po' più della versione di Daniele Nardi, nel senso che quello che viene raccontato qui ha un fondamento che è un fondamento riscontrabile. Quindi noi ci siamo spinti, eravamo in una situazione, d'accordo con l'editore, per poterci spingere fino ai limiti della giurisprudenza. Quindi quello che viene raccontato in questo libro è per la prima volta una dettagliata cronaca dei giorni che hanno preceduto l'abbandono del campo base da parte di Daniele. Ecco, perché il risultato finale che conosciamo è che Daniele Nardi se ne va, scende. Sì. Ovviamente lui dice: sono stato talmente mobbizzato da essere in qualche modo estromesso da questo mio sogno di arrivare a scalare. Esatto. E quello che succede è che Daniele al momento non si rende nemmeno conto di quello che sta succedendo. Questo forse è il rammarico più grande. Cioè lui dice: è stata giocata una partita a scacchi, io non mi rendevo conto di dove erano i pezzi e a un certo punto ero talmente a disagio in quella situazione, stavo talmente male che l'unica soluzione mi sembrava quella di andare via. 10 giorni dopo loro vanno in vetta. E si parla di miserie, cioè ci sono parole molto molto molto dure, che evidentemente di un uomo ferito per quello che era successo, di un uomo molto arrabbiato. Sì, Daniele era un emarginato, questa è la verità, non aveva accesso ad alcuni media che sono molto importanti in questo ambiente, questo gli impediva di costruire una carriera mediatica che potesse essere appetibile per i grossi sponsor, e l'ha messo sempre in una condizione, come diceva lui, di dover raccattare i soldi per poter fare le spedizioni, mentre magari altri alpinisti avevano più facilità ad accedere ad aziende che potessero disporre di mezzi molto più importanti. Il motivo qual era? Perché veniva così emarginato? Non posso credere che fosse solo, diciamo, di provenienza, per la provenienza. Un po' sì, credo, sai. Sì, non è l'unico sport dove gli atleti che hanno una certa provenienza vengono emarginati, perché i grossi centri di potere sono altrove, sono localizzati geograficamente altrove. Questo è una difficoltà oggettiva, nel senso che Daniele mi diceva: quando io vado in un negozio di sport di Sezze o di Latina o di Roma a chiedere soldi per scalare il Nanga, non devo spiegare cos'è il Nanga, devo spiegare cos'è una montagna di 8000 metri, cosa che magari non succede a Bolzano, per cui lui doveva fare molta più strada per arrivare laddove una persona nata ai piedi delle Dolomiti poteva arrivare. E dall'altra parte è inevitabile che si creino dei centri di potere in cui la connessione tra media, sponsorizzazioni e atleti è molto forte, e Daniele era estromesso da questi centri. Allora, noi ci dobbiamo fermare. Io ricordo, Dario, anche tu hai scritto dei libri con Daniele Nardi, ovviamente, che sono reperibili. Io ricordo il libro che ha scritto Alessandra Carati, che trovate in libreria da pochi giorni, tra l'altro è uscita la settimana scorsa per Einaudi, intitolato La via perfetta. Leonardo, se vuoi, se siete d'accordo, io leggerei il finale, perché il finale lo sappiamo, insomma, Daniele Nardi e Tom Ballard sono rimasti là sulla montagna, e Alessandra, che ha avuto il gravoso compito, secondo me, di in qualche modo concludere il libro di Daniele Nardi, si immagina la fine così. Uno di loro era in pericolo, non sapremo mai chi. Mi piace pensare che non faccia differenza, perché nessuno dei due avrebbe lasciato l'altro. L'immagino scendere fino al pendio di neve dove c'è un ancoraggio, sopra un salto di roccia di circa 25 metri, sostenendosi, chiamandosi per nome ogni passo, dentro la notte scura. Arrivati a questo salto ripido, uno cerca di salvare l'altro, calandolo sulla corda. L'altro riesce ad arrivare giù, si ancora in qualche modo. Sono quasi al sicuro, dalla fine della parte scoscesa li separano solo due tiri di corda, due tiri che avranno fatto migliaia di volte. Da lì sarebbe bastato sedersi sulla neve e scivolare. All'improvviso quello che di loro è in alto, mentre sta organizzando la sua discesa, è colpito da un sasso o da una folata di vento o da un pezzo di ghiaccio. Perde l'equilibrio e precipita addosso all'altro. Appesi alla corda, senza più la forza di muoversi, con lo scorrere dei minuti il gelo se li prende. Forse sono riuscito a parlarsi per l'ultima volta in un saluto breve, pieno dell'amore fulgido e potente che si sprigiona sul confine con la vita. Alla fine hanno chiuso gli occhi. Prima di abbandonarsi, Daniele ha svuotato il suo cuore di ogni cosa perché potesse essere abitato per sempre da Daniela, da Mattia. Daniela e Mattia, che sono la moglie e il figlio di Daniele Nardi. Allora noi ringraziamo davvero Dario Ricci, ringraziamo Alessandra Carati, ricordo il suo libro La via perfetta, edito da Einaudi, lo trovate chiaramente in libreria. Rieccoci a Uno Nessuno 100.000, cari ascoltatori, è il momento di presentarvi il prossimo ospite. Si tratta del professor Adolfo Ceretti. Buongiorno Ceretti. Buongiorno. Allora, professor Ceretti insegna criminologia all'Università di Milano Bicocca. Tra l'altro la criminologia mi ha sempre affascinato, il criminologo. Adesso magari ce lo definisce bene il criminologo. Certo, sappiamo tutti quello che hanno a che fare con il crimine o i crimini. Allora, ha scritto questo libro, il cui titolo è curioso, ma non sveliamolo subito, ce lo svelerà dopo, perché Il diavolo mi accarezza i capelli, memoria di un criminologo. È edito dal Saggiatore,

qualche volta veniva a trovarci in passato, poi è un po' scomparso. Io non ho neanche il coraggio di presentarvelo perché sono emozionato. Ve lo voglio fare introdurre dall'Alpino in regia così. Buongiorno, saluto tutti gli ascoltatori di Radio 24. Oggi siamo tornati a questi microfoni perché avevo una certa nostalgia canaglia che mi ha fatto tornare qui. Semelina Noli Cetinsani Re, oggi voglio rinverdire il maestro, maestro Enrico. No, volevo, perché volevo inserirmi per presentarla, ma faccio un po' fatica con questa sua cadenza. Il maestro Enrico Ruggeri. Ma so che sono stato molto richiesto in questo anno e quindi ho pensato di fare un regalo agli ascoltatori di questa emittente per diciamo tornare per qualche giorno prima delle vacanze estive. Quindi lei ricorda la mia trasmissione? Come no, il Falco e il Gabbiano. E oggi voglio raccontarvi al Falco e il Gabbiano la storia di Sbarello. Chi è Sbarello? Sbarello è un ragazzo un po' esuberante fin da piccolo. Anche coi genitori se lo rimprò verano Sbarello reagisce sbraitando, urlando, minacciando la madre e il padre. Insomma, Sbarello ha un carattere difficile, per niente prevedibile. Poi, crescendo nel periodo adolescenziale, Sbarello peggiora ancora, non va a scuola. Quando ci va nei bagni della scuola, per divertimento sradica dalla sua posizione il water, oppure porta a scuola un'accetta e fa pezzi la cattedra. Sbarello sembra destinato a una vita difficile che lo potrebbe portare anche a gravi conseguenze. Insomma, Sbarello non è certo uno zuzzurellone. Quando in città si sparge la voce che Sbarello ha un carattere così difficile, che Sbarello è un attacca brighe, comincia a rischiare anche lui di essere oggetto di altri sbandati che sono un po' come lui. E allora Sbarello, che in fondo è solo contro tutti, pensa che potrebbe aver bisogno di un cane. Sì, ma non di un cane normale, un cane da compagnia come un cocker o un chihuahua, no. Sbarello compra un cane da combattimento, un cane che, se ben addestrato, può far male a chi non ha buone intenzioni nei suoi confronti. E Sbarello lo addestra proprio per essere il più violento possibile. E di sera a casa gli affila i denti, che ormai risultano più affilati, ve li ricordate, dei vecchi coltelli dello chef Tony. E in compagnia del suo cane, Sbarello lo chiama Massacro. Sbarello non teme più nessuno, passeggia tronfio col suo cane Massacro, che dimostra di essere il cane più cattivo della città. Ed è qui che Sbarello ha il suo colpo d'ala. Sbarello si rende conto che adesso in compagnia del suo cane è in grado di intimorire tutti. E appunto questo è il colpo d'ala di Sbarello. Sbarello, con la sua dote di violenza, comincia a frequentare tutti i negozi del centro chiedendo il pizzo e poco alla volta comincia a farsi strada nel mondo del crimine. Sbarello comincia a farsi un nome, tutti lo temono, gli pagano il pizzo e allora, con i proventi ottenuti, Sbarello può mettere in piedi anche sale da gioco clandestine, traffico di droga e armi, giri di prostituzione. Insomma, per Sbarello è un successo dopo l'altro. Può così soddisfare tutti i suoi sogni, diventa ricco, famoso e un punto di riferimento per tutti i ragazzi del quartiere. Diventa un influencer e anche le principali riviste dedicano articoli a lui e al suo cane. Così Sbarello ha successo in società. Bravo Sbarello, ce l'hai fatta. Grazie al tuo colpo d'ala hai saputo mettere a frutto i tuoi talenti, sei diventato ricco, famoso e desiderato dalle donne. Ognuno di noi può avere un colpo d'ala che gli cambia la vita. Se anche voi avete una storia da segnalare, scrivete a me, ai miei social, a quelli di Radio 24. Insomma, se volete, sapete dove trovarmi. Ciao, dal Falco e il Gabbiano Reloaded. Beh, insomma, caro maestro, la ringraziamo tantissimo, però io adesso non so se posso permettermi, ma ne approfitterei, visto che lei è stato assente tanti mesi, visto che ha avuto così la gentilezza di venire a ritrovarci, cioè se io le chiedessi di raccontarcene un'altra di questa storia. Oggi mi sento particolarmente neroso e quindi vi racconto un'altra storia. Grazie. Perché ognuno nella vita può avere un colpo d'ala che gli cambia la vita. E oggi voglio parlarvi di un'altra storia, quella di un uomo che il colpo d'ala ce l'ha avuto. Lui si chiama Baronzio. Baronzio è una persona come tante, statura media, capelli castani, un paio di occhiali castani che gli incorniciano gli occhi castani. Tra l'altro abita a Castano Primo, nei pressi di Novara. Non alza mai la voce, è un tipo piuttosto timido, qualche volta balbetta, soprattutto quando è costretto a dire di no. Sì, perché il difetto, il problema di Baronzio è proprio quello, non riesce a dire di no. Anche quando ha finito il suo turno di lavoro, Baronzio non riesce mai a sottrarsi alle richieste dei colleghi di lavoro, degli amici, che gli chiedono di tutto. Per esempio, Baronzio, puoi finire il lavoro al posto mio che io parto per il weekend? Baronzio, puoi occuparti tu di questa pratica che io vado a bere una spuma? Baronzio, guarda che c'è quel cliente pesante, occupatene tu. Baronzio, vai a dare una pulita al bagno che ne ha bisogno. Baronzio, porta fuori il cane. Baronzio, temperami la matita. Baronzio, accompagna mia moglie all'IKEA che io non ho voglia. E Baronzio, a causa del suo carattere timido, non riesce mai a dire di no. Accenna un sorriso, una smorfia e poi fa quello che gli viene chiesto. Anche quando esce a cena con gli amici, alla fine qualcuno urla: stasera Baronzio paga per tutti. E Baronzio, che già era andato al ristorante controvoglia, non riesce proprio a dire di no e paga il conto per tutti. E infine viene anche deriso. Insomma, la vita di Baronzio non è una vita felice. Soprattutto Baronzio non riesce mai a trovare una scusa accettabile per rifiutare gli impegni e le incombenze alle quali i colleghi e gli amici lo sottolineano. Pongono. Finché un giorno, mentre Baronzio sta facendo l'ennesimo favore a un amico, portare fuori il cane, Baronzio per strada nota una ragazza timida come lui. È così timida che per non essere festeggiata quando compie gli anni dice sempre che è nata il 30 febbraio. Ed è qui che Baronzio ha il suo colpo d'ala. Capisce che quella ragazza, che appunto è molto timida, è quella giusta per poterci provare, ma non solo per farci l'amore. È la ragazza giusta per fare un figlio, figlio che poi sarà la scusa perfetta per Baronzio. Baronzio infatti pensa che se avrà un figlio poi lo potrà sempre utilizzare come impedimento per non fare quello che gli viene chiesto. Insomma, concepire un figlio non per amore, ma come scusa per sottrarsi alle angherie del mondo. Ed è questo il colpo d'ala di Baronzio. Infatti Baronzio conosce quella ragazza, Bausdilla. Lei timidamente accetta la corte e al buio, all'insaputa di lei, Baronzio fa l'amore senza profilattico. E questo è il secondo colpo d'ala di Baronzio. E lei rimane immediatamente incinta. Il figlio nasce 9 mesi dopo, gode di ottima salute, si chiama Giovenillo e diventa la scusa ottimale per Baronzio. Quando gli amici e i colleghi gli chiedono un favore, lui mette sempre davanti il figlio. Non posso, devo andare a prendere Giovenillo all'asilo. Non posso, devo andare a casa perché Giovenillo ha un'occhiolichina. Non posso, devo cucinare la crema di tapioca per Giovenillo. Non è vero niente, perché del figlio si occupa solo la madre, Bausdilla. Ma finalmente Baronzio, grazie al suo colpo d'ala, ha trovato la scusa perfetta e ha trovato anche la serenità. Bravo Baronzio, ce l'hai fatta. Ognuno di noi ha un colpo d'ala che può cambiargli la vita e trasformarla. Se anche voi avete delle storie da suggerire, scrivete qui a Radio 24 sui nostri, sui miei social. Insomma, se volete, sapete dove trovarmi. Insomma, grazie intanto, caro maestro. Abbiamo fatto un po' fatica a trovarla in questi mesi, ma insomma ci ha fatto un regalo molto molto prezioso per chiudere questa puntata di Uno Nessuno 100.000. Grazie davvero maestro Enrico. Grazie Ruggeri. A voi, sono sempre dispo nibile. Bravo, a domani. Domani alle 9, domani mattina alle 9, no, alle 10 e mezza. nessuno,